Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da luglio a dicembre del 1820. I napoletani muovono su Palermo, spedizione dell'esercito contro gli autonomisti. Le grandi potenze riunite in Austria, si va verso un intervento militare nel Regno delle Due Sicilie. Scoppia la rivolta anche in Portogallo, disordini ad Oporto e a Lisbona. Dramma negli Stati Uniti, la nave Essex attaccata da una balena, dispersi i marinai. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. È una fase di grande tensione in tutta Europa. La restaurazione inaugurata col congresso di Vienna sta evidentemente producendo forti resistenze. Anche in Portogallo, nelle città di Oporto e di Lisbona, è scoppiata una rivolta, mentre quella di Palermo e della Sicilia è stata sedata dagli stessi carbonari napoletani. I militari napoletani che hanno costretto Ferdinando a promulgare la Costituzione sono sì dei liberali, eppure dei carbonari, ma hanno idee politiche ben precise su come deve funzionare lo Stato delle Due Sicilie e vogliono che la centralità della capitale partenopea venga preservata. Di fronte alle rivolte di Messina e Palermo e al marcato carattere autonomista che il movimento carbonaro ha assunto in Sicilia, a Napoli hanno dunque deciso l'invio di una spedizione guidata dal generale Florestano Pepe, fratello di quel Guglielmo già protagonista dei moti di luglio. La sconfitta della giunta palermitana sembrava vicina, ma il popolo della città ha reagito opponendo una strenua resistenza alle forze napoletane. Alla fine la resa, ma con onore, e un accordo col generale Pepe firmato dal principe di Paternò per conto dei rivoltosi, nel quale vi sono ampie concessioni ai siciliani. Secondo il governo napoletano, però, Florestano Pepe si è preso troppa libertà, è stato richiamato e al suo posto inviato il generale Pietro Colletta, che ha soppresso qualsiasi volontà autonomista. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto la Santa Alleanza si è riunita a Troppau in Austria proprio per discutere delle vicende napoletane. L'orientamento che ne è emerso pone le premesse di un intervento militare nel Regno di Napoli sulla base di un principio generale che riguarda tutti gli stati nei quali vi siano state ribellioni, principio che dice: se a causa di queste alterazioni un pericolo immediato minaccia altri stati, le potenze li obbligano, usando mezzi pacifici o le armi, a riportare lo stato colpevole in seno alla Grande Alleanza. In chiusura andiamo negli Stati Uniti per una notizia di cronaca che arriva dal mare. La baleniera Essex, partita da Nantucket, è stata aggredita da un enorme maschio di capodoglio. È stata colpita due volte durante una battuta di caccia e affondata. Alcuni corpi sono stati ritrovati in mare, mentre il resto dell'equipaggio è dato al momento per disperso. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook, anzi fatelo e lasciateci un commento. O fatelo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.